Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentornati, benvenuti, 16.34, Luca Tremolada, Nova Lab 24. Sono in compagnia di Sandro Mangiaterra, buongiorno. Buongiorno a tutti. Torniamo a parlare di auto, torniamo a parlare di auto elettrica. Anzi, facciamo un po' di più, andiamo a scoprire un'azienda che da 20 anni produce veicoli elettrici ed è pure italiana. Si occupa di elettrico e ormai ha una tecnologia riconosciuta a livello europeo, mondiale. Ma prima di andare nelle Marche, in particolare a Monterubiano in provincia di Fermo, le news. Stati Uniti. Facebook supera Google e si afferma come il sito più popolare. Lo scrive il Financial Times citando i dati della società di ricerca Hitwise, secondo la quale la scorsa settimana Facebook, per la prima volta, catturando il 7,07% dei navigatori contro il 7,03% di Mountain View. Il dato riguarda solo le home page e quindi va preso con le molle. Ma certamente Internet sta diventando sempre più uno strumento sociale che di ricerca. In altre parole, contano più le persone dei database. Google avvertita. Le aziende cinesi che vendono spazi pubblicitari sulle pagine di ricerca di Google hanno richiesto chiarezza sui progetti della società in Cina. Più che una richiesta, pare un avvertimento. Due mesi dopo l'attacco informatico subito da Google, questo ulteriore sviluppo sembra rendere più concreto il ritiro dalla Cina delle attività legate al motore di ricerca. John Grisham gradisce l'ebook. Il celebre autore di thriller legali ha deciso di togliere il veto che aveva posto alla diffusione delle sue opere in formato elettronico e venderà ora i suoi 23 libri come ebook. L'autore de Il socio e Il momento di uccidere si era in precedenza rifiutato di vendere i suoi libri in formato elettronico, preoccupato che gli ebook potessero spazzar via le tradizionali librerie e rendere più difficile il successo ai nuovi scrittori. Evidentemente qualche cosa nell'industria editoriale sta cambiando. Auto elettrica. Partirà a giugno per la durata di un anno la sperimentazione su strada del progetto Auto elettrica fra Milano e Brescia, realizzato in partnership fra A2A e la Renault. Entro fine anno, nel capoluogo lombardo, saranno installati 200 punti di ricarica elettrica e altri 70 saranno realizzati a Brescia. Renault Nissan fornirà 60 auto elettriche con l'obiettivo di entrare a regime dal 2011. Rieccoci ritornati, l'ultima notizia era particolarmente centrata per il tema che andiamo a trattare. Noi andiamo a Monterubiano in provincia di Fermo, siamo in collegamento con Federico Vitali, presidente e amministratore delegato della FAM. Buongiorno. Buongiorno, allora, buongiorno insomma... a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Vitali, allora ha sentito buongiorno l'ultima news? Sì, ho sentito, interessantissimo, bello. Allora insomma l'auto elettrica... non è il futuro, come si è letto a Ginevra, la sfida tra le grandi case, l'auto elettrica è qui, è tra noi. Ma sì, ma l'auto elettrica è tra noi e lo è anche da 20 anni, voi l'avete detto nella premessa. FAM, che è una piccola azienda marchigiana, produce veicoli elettrici da 20 anni, ne ha portati oltre 3.000 sul mercato europeo e mondiale, perché ne abbiamo dati 35 pure a Pechino per l'Olimpiadi Verdi. Tra l'altro Vitali, se ho capito bene, quello in cui voi siete bravi sono le batterie, no? Infatti. Cioè infatti, voi sostanzialmente avete potenziato la batteria al litio, che per far capire a tutti gli ascoltatori sono, cioè il litio è l'elemento che si utilizza nei telefonini. Esatto. Cioè il modello è quello dei telefonini, sostanzialmente. Il concetto è quello dei telefonini, esatto. Ma forse possiamo sentire questa scheda così capiamo meglio chi è Federico Vitali e che cosa fa la FAM. Dal 1974 si occupa di batterie e da almeno una ventina di veicoli elettrici. Federico Vitali, 57 anni, presidente e amministratore delegato della FAM di Monterubiano, in provincia di Fermo, non è un sognatore, piuttosto un precursore. Oggi la FAM, 92 milioni di fatturato, 250 dipendenti, una presenza internazionale che va dal Sud America alla Cina, ha sviluppato una leadership riconosciuta nelle batterie fuel cell per vetture a idrogeno e nelle nuove batterie al litio. Risultato? L'auto elettrica è già qui, è una realtà. Abbiamo superato i vecchi limiti che ne impedivano lo sviluppo, assicura Vitali. Prestazioni e autonomia sono del tutto paragonabili alle auto tradizionali. Insomma, abbiamo messo le grandi case nella condizione di poter lanciare i nuovi veicoli sul mercato. Come dire, noi a monte, grazie alla ricerca e all'innovazione, abbiamo fatto la nostra parte. Adesso tocca a Toyota, Renault, Fiat e a tutti gli altri fare la loro. Allora, proviamo a tornare sul tema delle batterie. Quanto durano? Com'è che avete fatto a realizzare? Come funzionano? Quanto durano? Quali sono gli ostacoli? Quali sono le difficoltà? Allora, intanto grazie per la scheda, complimenti. In effetti noi non vogliamo essere competitori di Fiat, Mercedes, Toyota, ma vogliamo essere a monte coloro che hanno esperienza nelle batterie e quindi lavorano per far sì che il veicolo elettrico sia sempre più utilizzabile. Diciamo, intorno alle batterie, di fatto io continuo a battere su questo tema qui, perché insomma le batterie sono il tema del futuro, cioè sia dai dispositivi più piccoli all'auto elettrica, la sfida tecnologica, la frontiera dove i giapponesi stanno impegnando tonnellate di denari, certo, è cercare di creare la batteria che dura di più. Allora, chi lei vince questa sfida, attenzione, ha in mano un mercato che sia dell'elettronica di consumo che sia quella dell'autoveicolo. E allora lei adesso, Vitali, ci deve dire appunto a che punto siete, insomma. Cioè, è vero che l'auto elettrica è ormai paragonabile all'auto tradizionale? Ma guardi, se non si vuole avere autonomie che poi non vengono utilizzate, sì. Cioè, nel senso che una vettura con 150-200 km di autonomia oggi è disponibilissima, con le stesse prestazioni di una vettura termica, di una vettura alimentata con motore termico, forse con prestazioni pure migliori rispetto a quella alimentata a motore termico. Beh, però quanto tempo, i dati sono, quanto tempo si ricarica una batteria di questo tipo? Perché poi il tema delle batterie è i tempi di ricarica, perché è chiaro che se poi devo tenere collegata la macchina a un'ora non è fattibile. Le prestazioni, come ha detto lei ci sta dicendo che sono paragonabili. L'autonomia e poi anche la manutenzione, perché ci poi arriviamo subito, quanto durano? Ci arriviamo subito. Una batteria al litio è praticamente una batteria senza manutenzione. Rispetto alla vecchia batteria al piombo, una batteria al litio è una batteria senza manutenzione. Ha bisogno di avere a monte una alta tecnologia nel sistema di gestione, quella che noi chiamiamo BMS, e che siamo riusciti in questi anni a metterlo a punto in maniera eccellente, tanto che Magneti Marelli, che è un colosso, voi vedete la nostra scheda, l'avete detto quando fatturiamo, ma sapete, Magneti Marelli, che è il secondo colosso mondiale per l'elettronica nella vettura, ha scelto FAM come partner per portare nel settore automotive le batterie al litio. Va bene. E quindi, in quanto tempo si ricaricano allora queste batterie al litio? Ma guardi, noi riusciremo a ricaricare il laboratorio, si riescono a ricaricare pure in pochissimi minuti, però poi dipende dalla tecnologia, dipende. Voi avete detto ricerca, in effetti noi stiamo lavorando a 360 gradi sulla ricerca. Oggi una batteria al litio, il laboratorio la ricarichiamo pure in pochi secondi, tanto che voi... Però lei ha specificato in laboratorio, però poi chiaramente a noi interessa fuori dal laboratorio, perché noi possiamo venire tutte le volte nelle Marche a chi carica l'auto. Se posso fare un parallelo, guardi, le dico, lei sa che la batteria del telefonino qualche anno fa pesava il doppio minimo di quella di oggi e durava la metà, è d'accordo? Cioè, sì. E per ricaricarla ci metteva tre volte il tempo che ci mette oggi. Sì, allora, però attenzione, perché sui telefonini sono un po' fermati, cioè a parte Toshiba, a parte qualche player giapponese, cioè dal litio, perché poi utilizzano anche loro il litio, cioè sono arrivati, non dico al tetto massimo di efficienza, ma quasi. Riescono a fare... Le dico qual è dove si sta lavorando lì, nella prodotta dove si lavora, per la ricarica rapida. Tenga presente che lei fra massimo due anni non userà più il cavetto per collegare il suo telefonino a carica batterie e lo caricherà in pochi secondi. Come senza cavetto? Cioè con quelle specie di sorgenti? Per induzione, sì. Lei appoggia il telefonino. Ma ci sono già, Ci sono già. Sì, però adesso a livello sperimentale, io le sto dicendo che verrà usato a livello, come dire, dal consumatore sul comune, sul mercato entro massimo 2 anni. Nelle batterie per le vetture, noi oggi, non avendo limiti di biberonaggio, scusate questo termine tecnico, però nelle batterie tradizionali, se una batteria la si ricarica solo per un po' e non si fa il ciclo completo, questo comunque nella vita della batteria incide come se fosse un ciclo completo e quindi va a incidere nella vita della batteria. Ecco, allora c'è Teo da Milano che ci chiede, insomma, pochi minuti in laboratorio, ma che cosa utilizzate per riuscire a caricare una batteria da auto in pochi minuti? Beh, dipende dalla chimica che si fa per fare la batteria e dal sistema di ricarica, ma tenga presente ma avete che un reattore nucleare oggi, però, per caricarla, cioè, avete un reattore nucleare, perché poi i tempi non sono chiaramente ci vuole un caricabatterie potente che non può avere una persona a casa, però tenga presente che se lei l'80% delle vetture immatricolate oggi in Europa percorrono meno di 50 km al giorno. Questo è un punto a suo favore. Nova Lab 24. Allora, ritorniamo in studio, sono le 16:46. Stavamo cercando di capire che cosa succede, come funzionano queste. Perché si dice l'auto elettrica è tra noi, ormai la tecnologia ha fatto passi da gigante, noi produciamo auto elettriche da 20 anni, eccetera, eccetera. Però sul mercato ci sono delle difficoltà oggettive. No? Sì, quindi c'è anche un po' di scetticismo, nel senso, cioè, io che vorrei capire, Vitali, che cosa manca perché l'auto elettrica sfondi sul mercato, che cosa il problema è culturale, perché vi stavo dicendo l'80% dei veicoli immatricolati in Europa percorrono meno di 50 km al giorno. Col vecchio sistema di batterie si percorreva dai 100 ai 120 km, col sistema attuale di batterie al litio, che sono 5 volte più leggere di quelle al piombo, che non necessitano di nessuna manutenzione, che hanno una vita media almeno doppia, con certe tecnologie, con certe chimiche riusciamo a tenere 10 volte la vita della batteria al piombo con la batteria al litio. E quindi si percorrono 200 km di autonomia, lei dice, quindi 4 volte la percorrenza media degli italiani, capisce? Quindi il veicolo elettrico può essere utilizzato, il problema vero è che c'è da riorientare la nostra cultura. Ma vede, abbiamo una grande fortuna: tutte quante le grandi crisi portano alle grandi rivoluzioni. La rivoluzione di questa grande crisi sarà quella di portarci il veicolo elettrico. Ecco, vediamo questa scheda che forse ci aiuta a capire perché questa crisi ci porterà il veicolo elettrico. Sentiamo la scheda. Sull'auto elettrica, Barack Obama ha deciso di puntare 2,4 miliardi di dollari. Ma anche la Francia di Nicolas Sarkozy non scherza. 1,5 miliardi di euro di investimenti da qui al 2020. Il presupposto, tuttavia, è lo sviluppo tecnologico, che passa necessariamente dalle batterie. Ecco allora le batterie fuel cell, ovvero celle a combustibile in grado di ottenere elettricità direttamente dall'idrogeno, senza bisogno di una combustione termica come nei motori tradizionali. Oppure le batterie a litio, 5 volte più compatte, di durata doppia e con prestazioni 20 volte superiori rispetto a quelle al piombo. Insomma, la tecnologia ha fatto progressi enormi e ha creato i presupposti per il successo dell'auto sostenibile. Merito della ricerca. La FAAM, per esempio, nel suo piccolo, ha rapporti consolidati con una decina di università, oltre che con il CNR e l'Enea. E negli ultimi anni ha speso in ricerca e sviluppo il 10% del proprio fatturato. Ecco, allora, io, va detto, sono un po' scettico, nel senso che l'auto elettrica non la vedo ancora tra noi. Questi numeri mi dicono che l'industria dell'auto si sta orientando in questa direzione, però insomma siamo anche abbastanza lontani e il problema culturale però è, mi permetta il termine, una sovrastruttura, per citare antiche letture. Io vorrei sapere, Vitali, quando potrò comprare un'auto elettrica e fare tranquillamente un viaggio da Milano a Monterubiano. Fermandomi a fare benzina, come adesso faccio benzina negli autogrill, fermandomi a ricaricare in pochi minuti la mia auto elettrica. Ci arriveremo? Sì, presto, guardi, prima di quanto lei possa immaginare. Io sono certo che noi nel giro di 3-5 anni al massimo avremo la possibilità di caricare la batteria in 7 minuti. Quindi, grosso modo, come un pieno di benzina, insomma. Come un pieno di metano. Poi, dico solo questa cosa, però poi il grande tema sarà la riconversione industriale, cioè chi oggi fa lo spinterogeno, chi oggi si occupa di componentistica auto, l'auto quella certo, con motore a scoppio. Cosa andrà a fare? Perché poi nell'auto elettrica c'è tutto un altro tipo di... È una riconversione discorso, industriale. Però ci sono altri indotti. Io no? Però volevo passare la parola a Pierangelo Soldavini, vice caporedattore di Nova 24, perché domani in edicola usciamo con una copertina che parla di energie pulite, sì, che parla ma di... Ma direi che parte proprio da quello di cui stiamo parlando, cioè dall'auto elettrica. Raccontiamo la storia di un italiano che in qualche modo già negli anni 80 aveva visto lontano e aveva fatto una scommessa sull'auto elettrica, scommessa che allora non era stata capita, era rimasta un po', così si chiamava la Torpedo. Poi tutti non so se fosse blu, ma era la Torpedo. Cioè, però, tutti gli innovatori comunque all'inizio non sono non capiti, vengono capiti. Cioè, sì, no, senz'altro lui appunto aveva, cioè, tutta questa visione si era scontrato con gli stessi problemi di ora di cui parlavate adesso, cioè i costi, le tecnologie così. Allora ancora più aumentati perché i costi erano ancora più elevati, però adesso lui è finito in Cina, in Corea, e sta lavorando attorno alle batterie al litio che sono poi il cuore di questa nuova tecnologia. Lo facciamo per riportarmi a Nova, che troverete domani in edicola, lo facciamo per dire che appunto la visione è importante, senz'altro l'accoglienza delle idee è importante, in qualche modo in questi 20 anni questo visionario pioniere dell'auto elettrica non era stato compreso. Oggi abbiamo delle tecnologie clean tech molto più magari visionarie, però che hanno un ecosistema anche in Italia dove possono svilupparsi, essere finanziate e poter crescere. Ma questa sì, è un po' la speranza. Cioè, ricordiamo che c'è un fenomeno intorno al clean tech, stanno nascendo molte idee anche in Italia su questo nuovo settore dell'industria. Noi la prossima settimana a Nova Lab 24 parleremo di queste nuove idee, invece domani insomma le potete già leggere in sì, parte. Ci sono delle start-up, ma ancora a livello molto embrionale, ma insomma che hanno delle buone idee che potrebbero... Comunque non c'è dubbio che c'è un settore industriale, tutta la componentistica auto, che deve e può riconvertirsi, anche perché in alcuni settori a monte della componentistica auto, ma non solo, cioè nell'economia verde, non richiedono grossi investimenti di accesso. E la nostra meccanica fine, per esempio, potrebbe tranquillamente approfittare del proprio know-how. Sì, sì. Ma io credo che sia, come avete detto prima, un problema di costi più che altro. Sì, ma infatti. Allora, problemi di costi, ma anche problemi di tempi. Sono le 16:53. Noi abbiamo finito i nostri. Vitali, la ringraziamo. A disposizione, ringraziamo Federico Vitali per aver partecipato. Rapidissima, Vitali, rapidissimissima. Quello che siamo riusciti a farlo grazie alla collaborazione con l'università, in particolar modo quella di Camerino. E ricordo a tutti che più le imprese sono vicine all'università, più le università sono vicine alle imprese, e più si accorcia il tempo tra gli innovatori e le innovazioni. Siamo grazie. D'accordissimo. Grazie. Grazie anche a Pierangelo Soldavini. Noi ci sentiamo domani alle 16:30. Arrivederci.